Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, torniamo a occuparci di biometano questa sera. Come molti ascoltatori ormai sanno, il biometano è il principale componente del biogas, che è qualcosa che viene prodotto spontaneamente quando alcune famiglie di microorganismi, detti appunto metanogeni, decompongono la materia organica in assenza di ossigeno. L'Italia è, dopo la Germania, il più grande produttore di biogas europeo, con circa 1600 impianti, 1200 dei quali attivi all'interno di imprese agricole che producono questo biogas a partire da scarti agricoli, deiezioni animali e, quando serve, integrando con culture dedicate. Oggi il biogas così prodotto viene usato per fare energia elettrica, che viene immediatamente immessa in rete, per la quale viene riconosciuto un incentivo. Ma da tempo si parla della possibilità di raffinare questo biogas in modo da estrarre il solo biometano, il quale potrebbe essere per esempio immesso direttamente nella rete del gas oppure usato per alimentare i mezzi agricoli. A questo scenario sono fortemente interessati anche i compostatori che, come noto, insomma, si occupano dello smaltimento della frazione umida dei rifiuti urbani e che, insieme a tutti gli attori della filiera del biogas, hanno dato vita a un'iniziativa volta ad accelerare questo tipo di scenario. Ne parliamo con Massimo Centemero, che è direttore generale del Consorzio Compostatori. Buonasera Centemero. Buonasera a lei e a tutti quanti. Senza, intanto partiamo da un numero. Ci ricordi qual è il potenziale di produzione di biogas, biometano in Italia? Ma noi abbiamo calcolato circa 8 miliardi e mezzo di metri cubi al 2030. Abbiamo fatto delle proiezioni, quindi un po' più in là rispetto ad oggi, del quale il mio settore, che è il settore dell'umido, la raccolta differenziata dell'umido, quindi una trasformazione ora in compost e domani in biometano, potrebbe occupare fino a 600 milioni, un miliardo di metri cubi di biometano. Teniamo conto che il consumo più o meno attuale del metano per autotrazione adesso è intorno al miliardo di metri cubi. In tutto il paese. Esatto. In tutto il paese. Voi avete calcolato comunque che se usaste questo biometano prodotto dai rifiuti per alimentare i mezzi della raccolta rifiuti, potreste fare funzionare tutti i mezzi da raccolta rifiuti d'Italia, per capirsi, no? Sì, in pieno come dire, principio di economia circolare, se tutta Italia dovesse fare la raccolta differenziata dell'organico e se questo umido fosse trasformato in biometano, il biometano sarebbe il combustibile necessario a far funzionare tutti i mezzi del trasporto rifiuti in Italia, quindi non solo la raccolta dedicata all'umido, ma anche tutto il resto. Ecco, esatto. Senta, perché dal vostro punto di vista meglio fare biometano che non produrre elettricità da mandare in rete? Meglio raffinare il biometano in un'azienda agricola o in un'azienda di compostaggio piuttosto che fare centrali elettriche? Ma guardi, noi come dire, passiamo, almeno per quanto riguarda il mio settore, dal settore del compostaggio, passiamo dalla produzione di prodotti che sono conosciuti, che sono diffusi sul territorio, il compost, che è un fertilizzante organico, e passiamo poi ad un altro prodotto molto conosciuto e molto utilizzato sul territorio, che potrebbe essere il metano. Quindi, come dire, questa fase intermedia della produzione dell'elettrico per noi è stata solo, speriamo, sia solo un passaggio intermedio per arrivare ad un secondo prodotto. Quindi per noi potrebbe essere un 2.0 non indifferente. Quantomeno un biometano immesso in rete poi potrà essere utilizzato in mille modi, anche per fare elettricità, ma a quel punto avverrà con le efficienze tipiche delle grandi centrali elettriche, che senz'altro sono superiori a quelle di una piccola centrale da azienda agricola. Senta, esatto. Nonostante si parli da molto di questo scenario del biometano e nonostante ci siano 1600 impianti a biogas in Italia, solo 7-8 di questi si sono dotati di un sistema di raffinazione. Che cos'è che oggi frena questo sviluppo? Ma allora, lo sviluppo è frenato da quello che è l'aggiornamento normativo, perché dal 2013 è stata pubblicata una norma che aveva un intervallo temporale fino al 2018, siamo quasi arrivati, quindi la norma deve essere sostanzialmente rinnovata. E nel frattempo sono successe cose molto importanti dal punto di vista del rinnovo anche o della pubblicazione attuazione di normative tecniche di settore. Quindi adesso esistono i codici di rete, cioè c'è la possibilità di immettere in rete il biometano in modo controllato. Diciamo che dal 2013 c'è stato questo decreto, poi siamo rimasti in attesa della normativa tecnica, adesso questa è arrivata ma sta per scadere il decreto e bisogna rifare il decreto. Esatto. Questa è un po' la sintesi, detta brutalmente. Senta, la sensazione è che in molti casi il desiderio di passare al biometano sia dovuto al fatto che per molti impianti a biogas stanno finendo gli incentivi. Le chiedo se lei pensa che sarà mai possibile mandare avanti questa filiera del biogas biometano senza incentivi. Ma io penso che allo stato attuale delle cose sarà molto difficile, molto difficile, perché comunque passare nel mio settore dal compostaggio alla digestione anaerobica già ha dei costi non indifferenti. Se poi bisogna passare dalla digestione anaerobica alla raffinazione del biogas al biometano, ci sono ulteriori costi. Penso anche allo stesso tempo che il tempo probabilmente garantirà anche l'ammortamento di tutti gli impianti che si andranno a costruire, quindi la possibilità di andare a diminuire questi incentivi. Va bene, grazie, buonasera Centemero. Grazie mille a voi, arrivederci.